Giovedì 8 dicembre del 2016, 87.9 la modulazione di frequenza. Ci ascoltate anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. Sull'home page c'è Ascolta la diretta. Diamo inizio con un certo anticipo a Visionari, dato che oggi neanche c'era il giornale radio. Il cinema su queste frequenze tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Per saperne di più sulla scaletta e sulla trasmissione basta consultare il sito della radio, sempre sull'home page, colonna centrale trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari Radio Onda Rossa, e l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ed eccoci con Rossella Schillaci, regista del documentario Ninna Nanna Prigioniera, che sarà proiettato qui a Roma al Teatro Palladium il prossimo 10 dicembre. Rossella, ben ritrovata. Sì, buongiorno, grazie. Allora, un titolo che mi incuriosiva molto e anche il tema, poi mi hai spiegato di cosa si parlava, lo raccontiamo un po' a chi ci ascolta? Sì, e il film documentario è stato girato in una sezione del carcere di Torino che si chiama Nido, dove sono detenute le mamme che scelgono di stare con i propri figli fino ai 3 anni di età. Perché c'è una legge, la prima legge è stata fatta nel 75 e dà la possibilità alle mamme di scegliere appunto di non separarsi dai bambini piccoli e di poterli avere accanto anche in un contesto appunto di reclusione. Mm-hmm. E a me aveva colpito questa possibilità, nel senso che mi sembrava una legge molto particolare che tutelava, almeno l'obiettivo era quello di tutelare i valori, il rapporto madre-figlio, diciamo. E poi in realtà insomma la cosa è più complicata, perché le sezioni dovrebbero essere avere delle caratteristiche particolari, ad esempio per essere pian terreno, avere l'accesso ad un giardino esterno dove i bambini possono uscire, e questo non sempre, non tutti i carceri è possibile proprio per come sono strutturati i carceri. Quindi in realtà poi è stata fatta un'ulteriore legge nel 2011 che prevedeva l'istituzione di istituti appunto di custodia attenuata, che erano un po' più a misura di bambino, diciamo. Mm-hmm. Ma per questioni economiche non tutte le regioni possono permettersi questi istituti, quindi laddove non ci sono le mamme continuano a stare nella vecchia sezione nido. Mm-hmm. E quindi il documentario in realtà non è, adesso vi ho spiegato la situazione, ma in realtà il documentario segue in particolare la vicenda di una famiglia, di una mamma con i suoi 2 bambini, per capire nell'arco di un tempo un po' lungo cosa vuol dire appunto, com'è la vita quotidiana all'interno di questa sezione. E com'è appunto questa vita quotidiana? Ma per i bambini la cosa bella, anche interessante, è che i bambini si adattano all'ambiente che hanno. I bambini giocano e poi trasformano anche un po' l'ambiente, perché poi tutti dalle assistenti alle guardie carcerarie hanno un occhio chiaramente di riguardo per loro, quindi la situazione in queste sezioni è decisamente migliore rispetto alle altre. Mm-hmm. Per le mamme è molto più pesante, perché hanno la responsabilità, devono stare con i figli 24 ore su 24 e in più spesso hanno pene relativamente brevi e spesso sono in attesa o del processo vero e proprio, quindi sono in custodia cautelare, o sono in attesa di misure alternative, quindi sono un po' in balia del sistema, in una situazione un po' fragile per loro, e nel contempo devono occuparsi anche dei bambini e cercare di non trasferire quest'ansia ai figli. E quindi mi ha colpito proprio anche la forza di queste mamme, spesso giovanissime tra l'altro, che riescono a trasmettere questa serenità ai bambini, nonostante sia molto difficile, e i bambini tutto sommato insomma si abituano e sono molto maturi, molto più maturi. Infatti, la protagonista ha poco più di 2 anni, ma è molto molto sveglia, molto attenta. È stato molto bello stare con loro durante il periodo delle riprese. Mm-hmm. Rossella, come mi dicevi che ti aveva incuriosito questa normativa, ma come era partita poi l'idea di farne un documentario, e poi come ti sei organizzata anche rispetto alle esigenze del carcere? Ma è stato un processo molto lungo, nel senso che sono venuta per caso a conoscenza del fatto che appunto ci fossero dei bambini in carcere, perché devo dire, devo ammettere che proprio non conoscevo né questa legge né questa possibilità. Nel momento in cui l'ho scoperto ho iniziato a parlare con tutti gli educatori, gli assistenti, le istituzioni che lavorano con i bimbi in questa sezione, e devo dire da subito mi è venuta voglia di capirne prima di tutto di più e poi di provare a raccontarla dal punto di vista delle mamme, quindi cercare di capire, visto che fino a quel momento avevo in qualche modo sentito tutte le varie campane di chi era pro, chi era contro, la domanda fondamentale era effettivamente cos'è meglio per un bambino piccolo, stare con la propria madre in carcere o stare fuori ma senza vedere la madre se non un'ora a settimana. E per rispondere a questa domanda l'unica era appunto cercare di capire dal punto di vista delle mamme che avevano fatto una scelta particolare, cercare di capire com'era veramente la situazione. E quindi dopo ho chiesto l'autorizzazione, chiaramente ci ha messo un po' di tempo ad arrivare, dopo che è arrivata ho conosciuto le mamme e poi in particolare ho deciso di fare un lavoro più di osservazione, quindi senza interviste, non è un documentario né di indagine né di inchiesta sociale, ma è molto intimo, perché ho pensato che l'unico modo per provare a riflettere su questi argomenti che sono molto densi, ci sono mille questioni aperte, era provare a seguire in particolare una mamma, quindi starle accanto e condividere con lei questi tempi di attesa, i tempi delle decisioni, per provare, per quanto è possibile chiaramente, a mettersi nei suoi panni, provare a stare anche, dare allo spettatore la possibilità di entrare in cella e condividere quegli spazi e provare a riflettere, appunto, chiedersi cosa fare io al suo posto. Mm-hmm. E quindi poi con una mamma in particolare si è deciso, che ha accettato, si è deciso di iniziare con le riprese e provare appunto a accompagnarla. Rossella, una curiosità, che tu sappia, la legge è applicata un po' in tutta Italia, e quante donne ne fruiscono? Allora, la situazione al momento è in fase di, appunto, di trasformazione, perché sono già stati costruiti al momento, se non sbaglio, 4 ICAM in 4 regioni. Quindi adesso a Torino per esempio l'hanno da poco inaugurato, c'è, cioè, a Venezia, se non sbaglio, a Roma e a Milano. E dovrebbero in realtà aprire queste case famiglia, che è ancora un passo ulteriore e migliore chiaramente, perché sono istituzioni assolutamente più adatte ai bambini, ma anche qui ci sono un po' di problemi economici. In generale comunque sono una sessantina in media i bambini che sono nelle varie carceri italiane, nelle sezioni femminili, quindi okay, non sono tantissimi ma non sono neanche pochi. Allora, ricordiamo intanto la proiezione al Teatro Palladium qui a Roma il prossimo 10 dicembre, ossia sabato, e intanto ti chiedo anche l'orario e se ci sarà anche la tua presenza. Sì, è alle 16 e ci sono anch'io, infatti, ci sei anche tu. Okay. Per rispondere poi alle domande al termine della proiezione. E poi volevo chiederti se c'è un riferimento web per saperne di più, anche su un eventuale calendario di proiezioni e sul documentario, sì, in sé. Ma al momento abbiamo una pagina Facebook che si chiama proprio Ninna Nanna Prigioniera, e lì poi vorremmo postare, sicuramente ci sono poi tutte le notizie su quando, e poi in teoria da marzo, se tutto va bene, ci sarà una piccola distribuzione nei cinema, in alcuni cinema in Italia, e poi vorremmo anche postare tutto, insomma, i cambiamenti anche in collaborazione con le associazioni, perché ci sono tantissime associazioni che ci hanno aiutato sia in fase di ricerca che di sviluppo, che stanno lavorando su questi temi, quindi raccontare come sta cambiando la situazione. Benissimo. Però per me era una bella opportunità per parlare sia appunto di temi universali come appunto la maternità, l'infanzia, e sia anche proprio la situazione del carcere, quindi è un bel modo secondo me per entrare in questa realtà. Bene, Rossella, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Anch'io, grazie mille. Ciao, buona ciao, giornata. Ciao. Ciao. Rossella Schillaci, regista del documentario Ninna Nanna Prigioniera, che sarà presentato al Teatro Palladium qui a Roma il prossimo sabato 10 dicembre a partire dalle ore 16 alla presenza della regista. Ed eccoci con l'artista Renato Casaro per parlare della sua mostra personale Per un pugno di colori al Santa Maria della Pietà a Cremona, partita il 3 dicembre, andrà avanti fino al 9 gennaio. Intanto Renato, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno. Tutto bene? Eccomi qua, tutto bene. Siamo tornati appunto da questa inaugurazione della mostra. È un piacere averti con noi. Tu sei autore delle locandine, dei manifesti di molti film importanti del cinema italiano e non solo. Sì, sì. E volevo chiederti intanto più o meno quante sono le opere rispetto al cinema che hai realizzato. Ma sono senza incontabili. Comunque diciamo le più diciamo catalogate, le più importanti sono sulle 800. E poi c'è altre cose minori, poi tanti schizzi, tutte catalogate molto bene, perché credo di avere la collezione, diciamo, di originali, la più importante, ecco, come personale, come mostra, come archivio personale. Allora, ti chiedo subito, anche per chi ci ascolta, qual è stato, com'è stato e quando è stato l'inizio di questo tuo rapporto artistico con il cinema? Ma il cinema è da sempre un amore viscerale che porto da bambino. Quando entravamo nelle sale, l'unico divertimento era entrare al cinema e stare tutto il pomeriggio a vedere due o tre volte lo stesso film, Tarzan, non so, i vari Tarzan, Western, eccetera. Quindi da là nasce la passione. E poi soprattutto con il naso all'insù a studiare, innamorarsi degli affiche, dei manifesti, che allora era l'unico veicolo pubblicitario per farci andare dentro al cinema. Quindi a 18 anni già ero nell'ambiente, ecco, cominciavo già a operare nel settore. Senti, tu sei stato praticamente un autodidatta. Per la tecnica hai usato soprattutto pennello e aerografo, ecco. Esatto, sì, autodidatta, perché questo è un'arte, un mestiere arte che non ti insegna nessuno, non lo puoi imparare nelle scuole o nelle non so, ti possono solo aiutare gli studi che fai studiando gli altri artisti, gli altri che stanno nel firmamento del cinema, o anche altri pittori, insomma, come Norma Rockwell, che ho adorato molto, è un illustratore americano molto famoso. Sì. E quindi da là parte lo studio, l'inizio dello sviluppo poi della tecnica. E senti, sullo stile, sul tuo stile, come dicevamo prima, con pennello aerografo, sì. Com'è il tuo modo di lavorare? Ma diciamo all'inizio era solo pennello, perché tempera e pennello, ed erano anche abbastanza diciamo veloci come realizzazione, quasi impressionisti i primi, anche perché era il periodo e lo stile era quello, il mercato richiedeva quel genere. Poi invece piano piano ho perfezionato la tecnica, portandomi verso il realismo, verso il fotorealismo, e quindi mi sono aiutato anche con l'aerografo, la tecnica dell'aerografo, che io ho usato per primo, diciamo, nell'ambito del cinema, nei manifesti del cinema l'ho usato più studiando appunto i giapponesi, studiando gli americani, eccetera, dove l'aerografo era molto molto presente. Senti, il primo successo internazionale, se non sbaglio, è stato La Bibbia, produzione di Dino De Laurentiis. Ecco, ci dici com'è stato questo episodio? Beh, è stata una fortuna avere l'incarico di preparare questa immagine, questo manifesto, che doveva andare al Sunset Boulevard in Los Angeles, dove si usava mettere all'uscita alle prime dei film importanti, si usava mettere questi tabelloni giganti 10 metri per 5, grandissimi, sul Sunset Boulevard. ed ebbi veramente la fortuna e il piacere di vedermeli affissi così in questo mondo già sognato del cinema americano, insomma, ecco, avevo raggiunto un po' il primo gradino. È molto importante, sì. Sì, sì, sì. Senti Renato, allora due grossi filoni rientrano nella tua carriera, quello legato alla cinematografia di Sergio Leone e quella di Bud Spencer e Terence Hill. Ecco, ci racconti anche un po' di questi due filoni? Ma sì, non sono solo questi due, insomma, sono moltissimi i filoni in cui mi sono infilato dentro, ecco, perché è una fortuna avere il filone come Terence Hill e Bud Spencer, perché ti danno la possibilità di giocare per diversi film, quindi è un lungo lavorare sopra, avere un particolare rapporto anche con loro due, per cui entri nello spirito e quella che è la loro anima, ecco, anche se superficiale, ma insomma si riesce con diversi film che si fanno a captare proprio quella che è la loro sintesi. Sì, sì, sì. E poi con Sergio Leone particolarmente, insomma, ho avuto un bel rapporto perché ho avuto un paio di film importanti con lui. Prima era il film con Terence Hill ed era Il mio nome nessuno, e poi è seguito La Bibbia. C'era una volta in America. C'era una volta in America. Ecco, beh, si lega un po', va, La Bibbia, America, C'era una volta in America. C'era una volta in America, un film molto riuscito, la pubblicità molto riuscita, Sergio Leone era veramente, veramente entusiasta, una campagna pubblicitaria che è stata usata in tutto il mondo, peraltro. Mm-hmm. Quindi ho avuto la fortuna proprio di frequentare Sergio Leone con un bel rapporto amichevole, ma anche di stimoli, ecco, che lui poteva dare da persona di cinema com'era. E devo dire che oltretutto poi mi aveva chiamato per degli storyboard di un film che stava in preparazione, un film western, che poi purtroppo lui è mancato, quindi non ha preso piede, però ho lavorato con lui proprio in previsione di questa preparazione di questo film. Mm-hmm. Era un western. Sì, sì, sì, sì. Senti Renato, allora temporalmente ti volevo chiedere anche questa curiosità, sì. Le tue opere che arco di tempo coprono, da che anno a che anno più o meno? Ma diciamo dagli anni 50 fino all'avvento del digitale. L'avvento del digitale insomma mi ha fatto smettere proprio, ho chiuso con questo rapporto bellissimo, fra l'altro, però senza rimpianti, chiaramente, perché il digitale non è all'altezza di esprimere cosa abbiamo espresso noi, insomma, sì, no? Noi sì. Illustratori di cinema che attualmente dopo che il digitale non ha dato quei frutti voluti, è così appassionante attualmente, veramente è un genere che i giovani accolgono molto volentieri e sono anche stupefatti da come si poteva lavorare appunto di areografo e pennello. Senti, come funzionavano le scelte? Ti venivano commissionate o eri anche o sceglievi anche tu i film di cui disegnare? No, venivano commissionati, io avevo appunto la clientela affezionata, per cui mi chiamavano e mi davano l'incarico di realizzare il film, per cui quando tu hai un cliente, non so, come De Laurentiis, che ha magari due film importanti sul listino e che devi fare, poi non puoi rinunciare a un film magari minore, anche se tu vorresti rinunciare, però non puoi perché insomma il rapporto col cliente deve continuare, e quindi fare anche cosa non vorresti fare, però insomma ci metti lo stesso impegno, per cui certe volte è successo che magari il film minore ha una pubblicità molto più su, ecco, molto più accattivante. Senti, dopo l'avvento del digitale, come dicevi prima, a cosa ti sei dedicato? Qual è la tua attività ora? Ma la mia attività principale, praticamente, essendo un amante di Africa, un viaggiatore d'Africa, ogni anno mi faccio un mese in Africa, e così ho deciso che dovevo dipingere animali d'Africa, animali chiaramente grossi, da, i Big Five di africani. Sì. È un mercato abbastanza aperto, un mercato recettivo, per cui insomma mi sono trovato molto bene. Non è che dipingo per un fatto economico, cioè è un fatto solo per me, ecco, certo. È uno sfogo personale, uno sfogo di dove posso fare cosa, ecco, senza legami, senza. Mm-hmm. E quindi dipingo Africa. Dipingi Africa. Senti, dal punto di vista cinematografico, quali sono le più grandi soddisfazioni dei tuoi lavori? Sono parecchi. È una domanda imbarazzante, perché sono parecchi lavori, ma anzi direi tutti, perché per uno o per l'altra cosa hanno avuto tutti una storia, ogni lavoro ha una storia a sé, più o meno riuscita, ma insomma è sempre una creatura tua, per cui è difficile fare una selezione. Però direi che gli ultimi, con la tanta esperienza, con sviluppare la tecnica, anche con le idee, si è molto migliorato il genere, per cui diciamo che gli ultimi film erano, direi, preferirei dire che sono i migliori, ecco. Potrebbe essere il film di Claude Lelouch, di Bertolucci, L'ultimo imperatore, Nikita, insomma tutti da elencare, oppure Dario Argento con Opera. Insomma, c'è tanta roba. Senti, Renato, c'è uno spazio internet, un sito dedicato proprio ai tuoi lavori? Sì, certo. Che ha il tuo nome, sì. Renato? Lo posso. Com'è? È al tuo nome, Renato. Sì, nome Renato, sì. No, purtroppo non mi viene in mente in questo momento, non me lo ricordo. Però c'è un sito internet, sì, insomma, sì, con sì, tutti i tuoi lavori. Artcom.com, si trova facilmente. Benissimo. Allora, intanto ricordiamo la mostra Per un pugno di colori, mostra personale di Renato Casaro, al Santa Maria della Pietà a Cremona, sì. Partita il 3 dicembre, andrà avanti fino al 9 gennaio. Sì. È stato un piacere, Renato, speriamo di risentirci anche in prossime occasioni. Vorrei aggiungere che sono originali, sono gli originali stampati, sono tutti originali. Ah, che bello. E poi da là andremo a Genova per un altro mese. Benissimo, un abbraccio e a presto. Grazie a voi. Ciao Renato. Ciao. Renato Casaro, l'illustratore Renato Casaro, sulla sua mostra personale Per un pugno di colori. Eccoci con Luca Ricciardi, direttore della nona edizione di Visioni Fuori Raccordo, Rome Documentary Fest, al Teatro Palladium a Roma dal 10 al 14 dicembre. Luca, ben ritrovato su queste frequenze. Ciao Federico, grazie dell'ospitalità. Tra l'altro abbiamo scoperto della nostra frequentazione monteverdina fin dalla giovane età, insomma. Di tanti anni fa. Senti Luca, allora, per chi ci ascolta, chiaramente diciamo quali sono le caratteristiche del Visioni Fuori Raccordo. Ma Visioni Fuori Raccordo è un festival dedicato al cinema documentario, al cinema del reale. Siamo alla nona edizione. Siamo con l'idea di raccontare la rappresentazione delle periferie nel cinema italiano, nel cinema contemporaneo, e siamo arrivati, diciamo, adesso a un'identità, a uno sguardo forse un po' più maturo, in cui il termine periferie per noi è un po' sinonimo di tante cose: conflitto, trasformazione, sperimentazione. Quindi cerchiamo i film in qualche modo che raccontano questo, e anche che lo fanno avendo anche loro stessi questa natura conflittuale, sperimentale, una natura che in qualche modo è quella di lavorare sui confini della realtà, ma anche sul confine del cinema, dell'arte cinematografica. Quindi è un po' queste due cose: da un lato l'aspetto tematico, dall'altro l'aspetto proprio del linguaggio cinematografico, sono le cose che mettono insieme la nostra selezione di documentari, che da tanti anni è una selezione di documentari italiani in concorso, e da quest'anno anche una selezione di documentari internazionali in anteprima italiana o romana, quindi un grande passo avanti rispetto al passato. Ecco, a proposito di passi avanti, proprio riguardo al linguaggio cinematografico, mi dicevano che ora in selezione ci sono lavori con un alto grado di competenza stilistica e artistica. Ma assolutamente, è una chiave un po' della nostra ricerca. Adesso io sono, quando si parla poi dei film selezionati per il concorso, sono un po' tutti figli nostri, quindi è difficile indicarne solo alcuni, però devo dire che ci sono sicuramente film, per esempio alcuni sono anteprime nazionali, altri sono film già visti, che forse già conosce, ho avuto modo di ospitare, per esempio Il successore di Mattia Epifani, che sicuramente da un punto di vista estetico e di linguaggio è molto ricercato. Ci sono lavori come La natura delle cose, che sarà un'anteprima nazionale qui da noi, di Laura Viezzoli, che è stato a Lucarno quest'estate, quindi è un lavoro molto interessante. Il soggetto è la fine vita di un malato di SLA che non può comunicare se non osservando con la pupilla alcune lettere su un monitor e componendo così, attraverso questa osservazione, delle parole, delle frasi, quindi diciamo, non so come dire, un soggetto che qualunque produttore a tavolino avrebbe detto non puoi fare un film su questa cosa, e Laura Viezzoli con una grandissimo coraggio riesce a fare un film su questo soggetto, mettendo se stessa dentro al rapporto con questa persona, ma inventando un modo per creare una metafora della vita di questa persona che è sorprendente. Vi anticipo che diciamo parliamo di paesaggi lunari, allunaggi, di cose che diciamo solo il cinema può creare, solo il miglior cinema. E poi non so, ci sono anche altri lavori, A noi ci dicono di Lu. Tu hai intervistato prima ovviamente Rossella Schillaci con sì. Nanna prigioniera, un lavoro molto coerente, l'osservazione molto interessante, è il film d'apertura di Visioni fuori d'accordo, sabato alle 16. Sì. Poi c'è l'anteprima nazionale di A noi ci dicono, Ludovica Tortora De Falco, una sorta di un film che racconta i bambini dello Zen di Palermo, quindi una periferia che vive probabilmente di molti stereotipi, che però per questa volta viene raccontata attraverso gli occhi dei bambini in una storia che è una sorta di educazione sentimentale, anche qui con grande rigore stilistico e fotografico. Quindi ci sono molte cose che sono interessanti per i temi e sono molto interessanti per il linguaggio che utilizzano. Il documentario italiano credo stia dando prova in questi ultimi anni di essere forse il campo di sperimentazione linguistica, estetica più avanzato rispetto a tutto il nostro cinema, quindi diciamo anche la nostra ricerca va un po' in quella direzione, e penso che non sia una sorpresa che ci sono queste punte di ricerca nel campo del cinema del reale. Senti, come è organizzato nelle sue giornate il festival? Noi cominciamo sabato 10, quindi dopodomani, alle 16 al Teatro Palladium, e andiamo avanti fino a fine serata. Poi domenica 11 di nuovo alle 16:30 apriamo con Il successore, lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 invece apriamo un po' più tardi verso le 18:00-18:30. Ogni giorno abbiamo due o tre film in concorso italiano e uno o due film della nostra selezione internazionale, che è anche molto interessante perché sono film che vengono dai principali festival di documentario del mondo. E sono un'occasione unica, credo, di vederli qui in Italia. Bene. Senti, ci lasci tutti i riferimenti web per la programmazione? Assolutamente. Allora, vi dico che sul sito www.fuoriraccordo.it trovate il programma, trovate tutti gli appuntamenti, c'è anche una pagina Facebook che si chiama Fuori Raccordo Film Fest. Vi invito anche alla giornata, serata finale del festival, perché proietteremo uno dei nostri film internazionali a cui teniamo particolarmente, Raven Iran di Susanne Regina Moires, e e racconta di due DJ iraniani che fanno musica elettronica clandestinamente in Iran, insomma un altro documentario da non perdere, ma soprattutto questi due DJ saranno con noi all'after party del festival alle 23 di mercoledì al Rashomon Bar, lì vicino al Palladium, quindi raggiungibile con 5 minuti a piedi, per la chiusura del festival, per una festa. Quindi lì siete tutti invitati, l'ingresso è gratuito e credo che sia insomma un momento per così, dopo aver visto un po' di film, stare tutti insieme, conoscere questi DJ, conoscere la regista, gli altri registi e questo. Benissimo. Luca, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie, grazie a te, a presto. Ciao, ciao, ciao. Luca Ricciardi, direttore della nona edizione di Visioni Fuori Raccordo, Rome Documentary Fest al Teatro Palladium qui a Roma dal 10 al 14 dicembre. Con Francesco Melzi di Good Films sulla distribuzione del film Captain Fantastic, in uscita in sala oggi mercoledì 7 dicembre. Francesco, tra l'altro è un film al quale che io ho trovato, l'ho visto, ho avuto modo di vederlo proprio ieri, trovo uno dei migliori film di tutto il 2016, gli ho dedicato la copertina della puntata di questa settimana con una foto di scena. Intanto ben ritrovato, Francesco. Grazie mille, ben ritrovato a te come al solito, sei sempre molto gentile ad ospitarmi. Raccontiamo a chi ci ascolta la storia di questo film, Francesco. Sì, è la storia di un padre, Viggo Mortensen, padre di 6 figli, che decide insieme alla moglie di fuggire dalla civiltà e di educare questi 6 ragazzi nei boschi di Washington State, nel nord-ovest degli Stati Uniti, quindi fuori completamente dalla civiltà. Gli insegna a cacciare a mani nude, gli insegna a pescare, gli insegna a costruirsi capanne, e poi gli dà un'educazione, una self-education, gli insegna testi filosofici, la storia, festeggiano la data di nascita di Noam Chomsky, che tra l'altro era ieri proprio, quindi siamo usciti proprio il giorno della nascita di Noam Chomsky anche noi, e quindi ripeto, crea questo gruppo familiare completamente fuori dalla civiltà. Un evento tragico, la malattia della madre, li costringe a tornare a lasciare i loro boschi, a tornare nella civiltà, e tornando nella civiltà si confrontano con problemi con cui mai avevano avuto a che fare. Sono delle persone diverse, cercherà, però riusciranno insieme al padre, all'aiuto del padre, a trovare una dimensione, una nuova dimensione. È un film molto profondo, molto divertente, con un Viggo Mortensen strepitoso, questo gruppo di ragazzini che vanno dai 9 ai 18 anni, stupendi. Un film, un inno alla libertà, vorrei dire. Sì, sì, sì, sì. Tra l'altro mette a confronto due stili di vita e poi di fondo le follie un po' della normalità e le follie anche di chi se ne chiama fuori. Assolutamente. Beh, tra l'altro questa idea del selvaggio West è un'idea molto radicata nella psiche americana. Sì, quindi sì. È qualcosa di molto comune per negli Stati Uniti, questo rapporto che hanno e che vogliono diretto con la natura, specialmente in certi stati come Oregon, Washington, nord della California. Mm-hmm. E poi c'è l'America, invece, la corporate America, nel film interpretata dal suocero di Viggo Mortensen, che è invece l'America del successo ad ogni costo, del country club e via dicendo. Francesco, e anche poi uno stile, non solo lo stile ma anche una tematica che ho trovato molto originale rispetto al panorama attuale, insomma un film che sicuramente si staglia rispetto al un po' all'omologazione corrente, non trovi? Sì, è una boccata d'aria fresca sicuramente. Sicuramente, tra l'altro è un film che è uno di quei pochi film che possono essere adatti sia ai ragazzi, sì, dai 10 anni in poi, che al pubblico che va a vedere anche i film impegnati che facciamo noi di solito di Good Films. Quindi è un film che può coprire varie generazioni, è un film fresco, divertente, tant'è vero che ha avuto un percorso molto importante, perché è partito al Sundance ed è stato un trionfo a Sundance a gennaio del 2016, poi è stato preso anche alla sezione Amsterdam Regal al Festival di Cannes, dove ha avuto applausi all'infinito, ed è stato, tra l'altro, ha vinto il premio della miglior regia, e infine a Roma, al Festival di Roma, ha vinto il premio del pubblico, l'unico, tra l'altro, unico premio in palio al Festival di Roma quest'anno, e ha vinto il premio del pubblico. Tra l'altro ho assistito a due proiezioni a Roma, veramente sono tra le esperienze più incredibili di cinema che abbia mai avuto in vita. No, è vero, centinaia di ragazzi che applaudivano scandendo varie volte durante il film, è stata un'esperienza incredibile, mi ha dato fiducia sul futuro del cinema e degli appassionati di cinema. Ci sono ancora, c'è un futuro e non lo pensavo. Invece questo film potrebbe veramente portare al cinema persone diverse rispetto ai normali utenti, diciamo. Noi ci crediamo molto. Bene. Senti, com'è stato l'incontro col film e poi la decisione di distribuirlo, e che con quali modalità, Francesco? Guarda, è stato particolare, perché era un film attesissimo da tutti i distributori, e hanno fatto una proiezione un anno e mezzo fa al Festival di Cannes di questo film. Stranamente nessuno l'ha comprato, perché sembrava che avesse qualche difettuccio, ed è uno di quei rari casi in cui non era ancora pronto il film, in cui il regista, il montaggio migliora tantissimo un film. Tanto è vero che anch'io ne ho perso un po' le tracce, poi è andato a Sundance, ho visto che è andato benissimo a Sundance, ha avuto delle critiche stupende. A quel punto l'abbiamo rivisto in una proiezione privata a Berlino, lo abbiamo adorato, e a quel punto l'abbiamo subito acquistato al Festival di Berlino. Sapevamo che già sarebbe andato a Cannes in concorso a Saint-Saint Regard, a quel punto l'abbiamo preso ed è diventato subito per noi il film dell'anno, diciamo. Infatti l'abbiamo messo a Natale, speriamo che il pubblico lo scelga. Penso che sia tra l'altro un film perfetto per le feste, per un film intelligente che fa pensare, divertente. Lo trovo meraviglioso, e secondo me il pubblico ci supporterà in questo sentimento. Francesco, io ti ringrazio, ci sentiamo per le prossime. Ti ringrazio molto, e mi raccomando, al cinema già da ieri in tantissime sale in giro per l'Italia. Grazie. A presto, ciao Francesco. Arrivederci. Francesco Melzi di Good Films sulla distribuzione di Captain Fantastic, uscito in sala ieri, mercoledì 7 dicembre. Massimo Causo, organizzatore de La Vita Dentro lo Schermo, la scuola di cinema Sentieri Selvaggi qui a Roma dal 5 fino al 15 dicembre, in pieno svolgimento, ad ingresso gratuito. Massimo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti, eccoci. Ci racconti allora di questa iniziativa? Sì, è un progetto che è il suo secondo anno, un progetto che con Elio Girlanda, che è responsabile insieme a me di questa iniziativa, abbiamo realizzato, stiamo realizzando per il Centro Studi Cinematografici, che è una delle associazioni di base della cultura cinematografica, che raccoglie in tutta Italia cinecircoli sin dagli anni 60, insomma, erano delle associazioni storiche. E niente, secondo anno, il cinema tra tempo e vivente, è un po' un percorso che vuole analizzare, ricostruire, ripercorrere il rapporto tra ciò che significa filmare e ciò che significa vivere nella prospettiva non solo del personaggio, dell'attore, ma anche dell'autore. Sostanzialmente il paradigma di base è quello che tiene insieme François Truffaut con Jean-Pierre Léaud e il personaggio di Antoine Doinel, no? Nella classica prospettiva della Nouvelle Vague. E ovviamente il tutto poi arriva ai giorni nostri con tutte le complessità di dinamiche che possiamo immaginare, passando da Richard Linklater con il percorso di Boyhood, che in un singolo film raccoglie, no, un'intera esistenza, un'intera, come dire, adolescenza, ma pensando anche a tanti altri esempi possibili e immaginabili, compreso il film di Michele Vannucci, che in questi giorni è nelle sale, Il più grande sogno, che appunto prende una persona come Mirko Frezza, lo racconta, lo fa diventare una persona, personaggio, e lo mette in scena, insomma, no? Ma è una dinamica abbastanza praticata ormai nel cinema. Senti, per saperne di più sulla programmazione, sull'evento, ci dai tutti i riferimenti web? Guarda, i riferimenti web in realtà sono quelli di Sentieri Selvaggi, su Sentieri Selvaggi, che poi la Scuola di Cinema dei Sentieri Selvaggi ci ospita per questi 5 appuntamenti. Trovate tutte le indicazioni, il programma dettagliato, insomma, giorno per giorno. È uno spazio che di sicuro potete frequentare. Noi abbiamo già fatto i primi 2 appuntamenti che raccontavano Werner Herzog, Klaus Kinski e Bruno S., ed è venuta grazie a Paganelli, e poi abbiamo raccontato il rapporto tra Leo Scarax e Denis Lavant con Giuseppe Gariazzo, insomma, nei prossimi giorni avremo appunto Michele Vannucci che parla del più grande sogno, lo avremo ospite, vedremo Una storia normale, il cortometraggio al quale è tratto, e questo sarà martedì 13, sempre alla Scuola di Cinema Sentieri Selvaggi. E poi avremo Pietro Marcello il 14, che racconterà appunto la storia di Bella e Perduta, ma in generale un po' il rapporto vita-cinema nel cinema di Pietro Marcello è fondamentale, perché tutti i suoi film sono costruiti appunto attorno a incontri con persone che diventano poi protagonisti dei suoi film. Massimo, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Massimo Caus, organizzatore de La vita dentro lo schermo, Scuola di Cinema Sentieri Selvaggi, qui a Roma dal 5 fino al 15 dicembre. Eccoci con Zazà di Casale Alba 2, tra i curatori del progetto San Basilio, Storie de Roma, che sarà programmato da Fuori Orario Rai 3 il prossimo 10 dicembre, sabato. Zazà, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a tutti e a tutti. Stavo controllando rispetto a questo progetto che ci eravamo sentiti proprio per parlarne già un paio d'anni fa, poi che è successo? È successo che nel frattempo ci abbiamo lavorato su, perché è stato un progetto abbastanza lungo che ci ha richiesto tanti sforzi, tanta ricerca, perché comunque è un progetto che mette insieme ricerca storica, legami col presente, interviste video, ricerca sui giornali dell'epoca, insomma è stata un progetto abbastanza lungo che però a settembre di quest'anno, durante le commemorazioni per il 42 anni della morte di Fabrizio Ceruso, è stato presentato in piazza definitivamente nella sua versione definitiva, e da allora stiamo girando un po' la città e l'Italia per presentarlo. Ecco, dicevi della vicenda della tragedia di Fabrizio Ceruso, e per chi ci ascolta raccontiamo un po' qual è stato, cosa c'è stato all'origine di questo progetto e della figura di Ceruso. Sì, Fabrizio Ceruso era un militante di Autonomia Operaia, un giovane di 19 anni che nel 1974 portò la sua solidarietà agli occupanti di San Basilio, nella periferia est di Roma, che avevano occupato delle case già da un anno, delle case popolari che erano sfitte e vuote da molto tempo, e siccome quel quartiere ha vissuto e vive ancora tutt'oggi un problema di emergenza abitativa molto grave, le persone del quartiere si sono organizzate e spontaneamente sono andate ad occupare questi stabili, che dopo un anno sono stati sgomberati con una violenza inaudita dalle forze dell'ordine. Sono venuti ragazzi e persone da tutta la città e anche da fuori, visto che appunto Fabrizio era di Tivoli, e durante gli scontri con la polizia succeduti a questo sgombero Fabrizio ha perso la vita. Un episodio molto significativo, innanzitutto per la lotta per il diritto all'abitare, visto che è stato il primo vero caso in cui, pagato ovviamente con la morte, però le persone poi che hanno occupato sono riuscite ad ottenere una casa, e tuttora questa memoria continua a essere viva, perché insomma da qualche anno, specialmente negli ultimi anni, questa memoria è stata ricollegata e ha ricominciato a parlare un po' col presente, con le varie realtà del quartiere, tra cui appunto la mia, ma anche le occupazioni che ci sono adesso a San Basilio, piuttosto che il centro popolare che è situato proprio al centro del quartiere, e varie altre realtà sociali, oltre che i vecchi compagni di Fabrizio con cui stiamo cercando insomma da qualche anno di riportare un po' la memoria, di rimetterla un po' al centro del sapere collettivo, soprattutto della gente del quartiere, e abbiamo insomma reputato che il documentario, il mezzo audiovisivo, potesse essere un buon metodo per arrivare, un buono strumento per arrivare a più persone possibili. Senti Zazà, stai parlando prima delle attuali occupazioni, ecco, che realtà si vive oggi a San Basilio? La realtà che si vive oggi a San Basilio è una realtà estremamente complicata. Penso che insomma tutti, anche coloro che sono all'ascolto, avranno potuto sentire negli ultimi giorni i fatti di cronaca collegati a quel quartiere. La realtà di San Basilio ovviamente è una realtà estremamente complessa, fatta purtroppo di tanti problemi sociali, a partire dallo spaccio, passando per la disoccupazione, per la dispersione scolastica, la mancanza di tanti servizi, e non l'ultimo appunto proprio l'emergenza abitativa. Le persone continuano a distanza di 40 anni a organizzarsi per occupare le case, e ad organizzarsi anche affinché gli abitanti che abitano e che hanno occupato non vengano sfrattati, che è un po' quello che è successo qualche giorno fa. Nella narrazione, a nostro modo di vedere, tossica, che è stata data dai media di questa vicenda, si sottolineava molto il fatto che era stata cacciata una famiglia di migranti perché a San Basilio gli abitanti vogliono solo gli italiani, ma non è assolutamente così. Là il discorso è che c'è già una grande attenzione rispetto al tema degli sfratti delle case popolari, legati al piano casa di Lupi, alla vendita delle case popolari, di cui San Basilio è uno dei principali bersagli da qualche anno a questa parte, e le persone scendono sempre in strada per far sì che gli occupanti non vengano sfrattati. L'altro giorno è successo purtroppo in questa maniera, anche perché c'è stata un'operazione estremamente provocatoria da parte dell'ATER e della Polizia Municipale, che addirittura ha portato la stessa famiglia assegnataria nel momento dell'esecuzione dello sfratto, che è una cosa che non si è mai vista, e evidentemente poi anche con la... Insomma, abbastanza ricattatorio come... Esattamente, soprattutto poi vedendo con che velocità è finita sui mass media e con che velocità è stata rimbalzata sulle cronache nazionali, è evidente che probabilmente c'era dietro un'operazione che da un lato mira in qualche modo a criminalizzare chi lotta per la casa e a dire sempre che insomma c'è dietro lo spaccio, c'è dietro il racket delle case popolari, delle occupazioni, quando invece non è assolutamente così, perché pur essendoci questi episodi, ma ci sono anche tante famiglie che non hanno casa e che occupano per necessità, come ci sono anche tanti movimenti per il diritto all'abitare in questa città, ce ne sono fortunatamente parecchi, e dall'altra quella di dipingere sempre San Basilio come un quartiere di criminali, di spacciatori, di violenti, di razzisti, insomma di fare sempre la solita propaganda dello sbarco il mostro in prima pagina, per giustificare le manovre speculative che si continuano a fare, che si continuano a perpetrare in quel territorio, che essendo ovviamente all'interno del raccordo anulare è estremamente interessante per la rendita fondiaria e non solo. Sì. Senti Zazà, per allora, oltre a questa proiezione a fuori orario di sabato 10, si può trovare in rete uno spazio dedicato al progetto di questo documentario? Sì, c'è il nostro sito che è www.progettosanbasilio.org, dove è disponibile tutto il materiale che abbiamo recuperato per questo progetto di memoria storica, le varie iniziative, dove ci saranno le presentazioni, se qualcuno non avesse modo insomma di visionarlo in questa settimana in cui sarà online, e c'è anche la pagina Facebook San Basilio Storie di Roma, abbiamo l'indirizzo mail progettosanbasilio@inventati.org, insomma c'è una piattaforma online su molteplici insomma luoghi dove si può consultare il materiale che abbiamo recuperato e che ovviamente stiamo recuperando, perché è un progetto vivo, non è un progetto che col documentario ha messo un punto, ma anzi è per l'obiettivo del documentario è proprio parlare col presente, cercare di aggiornarlo sempre e che sia un progetto in continuo divenire. Ci abbiamo messo così tanto tempo per realizzarlo, anche perché ogni volta che venivamo a scoprire una cosa nuova, specialmente sulla memoria storica, ne saltavano fuori altre 3, 4, 5, certo, per cui dovevamo sempre aggiornare e ampliare il lavoro. Bene, Zazà, allora un abbraccio e magari ci si risente per i prossimi aggiornamenti. Perfetto, grazie a voi, un saluto a tutti e a tutte, un saluto in particolare a chi è privato della libertà. Ciao Zazà, ciao. Ciao. Zazà di Casale Alba 2, tra i curatori del progetto San Basilio Storie di Roma, fuori orario Rai 3 il sabato prossimo, sabato 10 dicembre. Ventiseiesima edizione del Noir in Festival Como e Milano, 8-14 dicembre. Direttore Giorgio Cosetti, ben ritrovato Giorgio. Ben ritrovati a voi, si comincia oggi in effetti e poi si fanno carambole tali dal lago alla città, dalla montagna antica di Courmayeur alle novità di quest'anno. Dovrebbe funzionare. Bene, allora nuovi spazi, invece per chi ci ascolta, quali sono le caratteristiche che credo rimangano invariate del Noir in Festival? Dunque, intanto rimane invariata la data, dal Macolata in poi. Poi è rimasta intatta l'idea che noi siamo l'unico festival specializzato in un genere, e quindi non in una forma soltanto, quindi molto cinema, anche grande cinema, sempre più anche grande televisione ovviamente, moltissima letteratura e poi cronaca, storia, fumetto, insomma tutto quanto fa noir nel nostro mondo. E quando si dice noir ormai si dice che è tutta la parte oscura del nostro vivere. Oh, quali caratteristiche di questa edizione? La prima caratteristica nuova che abbiamo pensato insieme a Marina Fabbri e Gianni Canova, che da quest'anno per l'Università IUM di Milano ci raggiunge nel comitato direttivo, è che vorremmo un festival divertente, un festival popolare e un festival soprattutto rivolto ai giovani, ai ragazzi e alla formazione in qualche maniera. Non è un caso che a Milano il nostro quartier generale è più di metà delle nostre attività stiano in un campus universitario. Vogliamo contribuire a fare qualche cosa come festival, cioè formare un pubblico nuovo. Sì. E poi appunto l'idea che dobbiamo essere di nuovo di più un festival di frontiera che va a scoprire, per esempio nel campo del cinema, talenti, artisti e film nuovi da proporre al mercato. Oh, per come sarà articolato questa settimana? Ma noi l'abbiamo pensata come un vero e proprio continuum in cui il sistema degli 8 film di concorso si snoda prima a Como e poi a Milano, recuperando a Milano anche i titoli presentati in Riva al Lago, che gli scrittori che incontriamo, tanti più di 15 quest'anno, sono disseminati appunto a scacchiera tra le due parti, che gli eventi altrettanto si bilanciano. Ieri sera abbiamo fatto in preapertura la consegna del premio Chandler, cioè forse il premio più prestigioso del festival, a Roberto Saviano, ma il premio Scerbanenko, per esempio, al miglior noir italiano dell'anno, verrà riportato nella, come dire, patria elettiva di Giorgio Scerbanenko, cioè proprio a Milano. E così alla IULM forse introduciamo una delle attività più divertenti e nuove del programma di quest'anno, che si chiama Fight Cult, che è una vera battaglia di passione cinematografica fra ragazzi provenienti da tutta Italia e destinata a appoggiare, abbattere, festeggiare, criticare 8 noir italiani imperdibili degli ultimi anni. Bene. Senti, allora Giorgio, nel chiederti in chiusura i riferimenti web per la programmazione, ti anticipo che chiaramente che come ogni anno, come di consueto, tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 sarai tra i nostri amici e interlocutori per le cinquine dei film della stagione che hai preferito. Beh, certo. E non mancherà un noir. Bene, bene. Anche perché potrà non mancare un noir italiano. Tra l'altro, i riferimenti per il noir, sì, festival sono www.noirfest.com. Ci trovate fino a domenica al Teatro Sociale a Como, da lunedì alla IULM ovviamente, e poi al Cinema Anteo, nostro partner, e allo Spazio Oberdan della Cineteca Italiana. Giorgio, un abbraccio, ci sentiamo a fine mese. A presto. Ciao. Ciao. Giorgio Gosetti, direttore della 26esima edizione del Noir in Festival Como e Milano dall'8 al 14 dicembre. Con Agnese Fontana di Doc It per un bilancio degli stati generali del documentario che si sono svolti pochi giorni fa. Agnese, intanto benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, eccoci qui per parlare degli stati generali. Allora, mi dicevi che è stato un incontro articolato su più piani, ci fai un po' una panoramica? Certo, innanzitutto cosa sono gli stati generali? È un evento che Doc It non realizza tutti gli anni, ma come da titolo dell'evento, quando realmente il mercato sta cambiando in termini di utilizzo del prodotto, quindi propriamente di mercato, ma anche di rinnovamento creativo. È un momento per il cinema del reale, come usiamo chiamarlo oggi, ma come per il documentario o comunque la non fiction, come si è sempre definito, un momento veramente magico, ricco di opportunità sul piano dei rinnovamenti legislativi. C'è una sorta di riscrittura delle regole, così come del riscontro in ambito oltre che italiano anche internazionale, proprio del documentario per la sala del cinema del reale firmato da grandi documentaristi italiani. Senti, ci racconti un po' questo incontro, cosa è emerso? Lo abbiamo impostato proprio per affrontare la riscrittura delle regole e quindi per capire rispetto alla nuova legge cinema dove stiamo andando, che cosa succede. E quello che è emerso, ovviamente lo sapevamo da mesi, la scrittura dei decreti attuativi relativi alla legge approvata è il vero cuore. I decreti attuativi ci consentono di definire i singoli prodotti, ovvero è stata inserita una definizione di documentario, cosa che fino ad ora è incredibile, non avevamo. Verrà anche, perché è necessaria, inserita una definizione di produttore indipendente. Ci rifacciamo ovviamente a quelle che sono le regole europee, però è una cosa che finora noi in Italia di fatto è incredibile, nonostante fosse legge europea, non abbiamo rispettato. Quindi questo punto, diciamo che ha guidato un po' tutto lo sguardo che gli stati generali hanno avuto sul momento. Sì. E Doc It ha proposto già da mesi una definizione di produttore indipendente che, così come è emerso, soprattutto si riferisce a tre elementi. Uno, il la necessità di individuare società che non siano partecipate da broadcaster, che non realizzino il loro intero fatturato o fino all'80% con un medesimo broadcaster e che siano detentori dei diritti che producono. Tutte cose che sembrano naturali ma che invece non sono così chiare nel panorama attuale. È la definizione che anche le altre associazioni di produttori e di autori che hanno partecipato agli Stati Generali hanno voluto considerare come maggiormente significativa, e quindi ovviamente siamo molto contenti di questo orientamento e di questo confronto. Senti, è possibile trovare tutto online da qualche parte? Pubblicherete gli atti? Certo, sul sito di DoKit, attraverso la newsletter, all'interno di SlideShare ci saranno le slide realizzate dai partecipanti, così come la documentazione e anche un recap di presentazione con una linea dei vari interventi. Abbiamo avuto veramente una risposta importante sia dal punto di vista della rappresentanza di Rai che di Sky, hanno voluto dirci che cosa stanno facendo, ma soprattutto sono venuti per in qualche modo rispondere a delle domande che come produttori e come autori abbiamo voluto fare, in particolare alcuni punti che effettivamente sono fondamentali. Proprio la discussione del convegno ha riguardato la richiesta di avere un'esposizione da parte dei broadcaster delle linee editoriali, quindi una comunicazione periodica condivisa con le associazioni, individuando quali sono le best practices, ovvero quali sono effettivamente i titoli che hanno funzionato, che hanno dato i maggiori risultati rispetto alla loro programmazione, possibilmente semestrale, capire la tipologia, la durata del prodotto, serie, miniserie, one off, che cosa realmente hanno intenzione di produrre. Avere indicazioni di quello che è il budget allocato per ognuna tipologia di prodotto, così come conoscere i criteri di selezione. Da parte loro i broadcaster hanno detto: ma siete proprio sicuri che tutti gli autori e tutti i produttori frequentino davvero la messa in onda televisiva? Insomma, c'è stato anche un confronto che ha segnalato, come dire, gioie e dolori da entrambe le parti. Abbiamo naturalmente ribadito la necessità che i broadcaster possano fornire lettere di impegno per i progetti in sviluppo, che forniscano indicazioni sulla loro programmazione più pluriennale, che i contratti di produzione, insomma, siano condivisibili, a differenza di quanto non sia finora. Insomma, un grande lavoro che è ancora da fare insieme nella definizione di tutto questo. Devo dire che la partecipazione di Agcom è stata interessante, perché ci segnala la difficoltà di risolvere queste problematiche se, parlando ad esempio di servizio pubblico e quindi del rapporto con Rai, la definizione di fatto del rapporto fra lo Stato e Rai non è definito a monte nel nuovo contratto di concessione, prima ancora che il contratto di servizio. Quindi tutti i temi in relazione alla figura del produttore indipendente, come si vede, molto, molto caldi e appunto rappresentano l'opportunità di un grande cambiamento, proprio perché c'è in corso di riscrittura anche una legge che è nel rapporto fra il Ministero dei Beni Culturali e il MISE. Quindi, oltre alla nuova legge sull'audiovisivo, appunto cinema e audiovisivo, già la presenza delle due parole ci dice come dire che è davvero cambiato molto. Bene, allora Agnese, ci sentiamo magari prossimamente per ulteriori novità. Senz'altro, sarà un piacere darvele. Un abbraccio, a presto. Lavoro. Ciao. Agnese Fontana di DoKit per un bilancio degli Stati Generali del documentario. Gianluca Farinelli della Cineteca di Bologna sul restauro del film Il Mago di Oz in uscita in sala il prossimo 11 dicembre. Gianluca, ben ritrovato. Ciao, ciao Federico. Allora, raccontaci un po' di questo restauro. Beh, devo dire, è un restauro in questo caso che non abbiamo realizzato noi come Cineteca, ma che viene dalla Warner di Los Angeles, e devo dire che è veramente uno dei restauri che più mi ha sorpreso in questi anni, nel senso che il film è uno dei primi film in Technicolor con dei colori che sono una parte essenziale di questa fiaba, e forse il Technicolor non avrà più una bellezza così strana, così fiabesca come ha, come sono i colori del Mago di Oz. Ma oltre a questo, la Warner ha deciso di farne una versione in 3D, e il film uscirà nelle sale sia restaurato, con i colori restaurati in 2D, ma anche nella versione 3D. Mm-hmm. Che è molto molto molto sorprendente, perché il film non è stato girato in 3D, il film è stato girato in 2D, ma curiosamente, e davvero mi ha sorpreso, perché ovviamente io sono un cultore delle cose come erano e non come possono essere immaginate attraverso le tecnologie, però devo dire che quando mi è successo di vedere proprio a Los Angeles questo restauro, sono partito pieno di preconcetti, dicendo vabbè, lo vedo perché sono obbligato a vederlo, ma chissà che orrore. E poi minuto dopo minuto venivo conquistato dalla incredibile bellezza della versione 3D, che è una versione che non è mai esistita all'epoca. Il film è del 1939, quindi il 3D ancora non era utilizzato. Esisteva, ma non era una tecnologia utilizzata. Ma questa nuova versione in 3D è come se liberasse completamente la fantasia del film, e siccome spesso il film è costruito proprio su una profondità di campo che non viene realmente utilizzato dal 2D, beh, queste corse di Dorothy a perdifiato in queste scenografie che hanno tutta la profondità di campo delle tre dimensioni, rendono questa versione come la perfezione del come quello che avrebbe potuto essere, ecco, liberano la fantasia di Dorothy, la nostra fantasia completamente. Quindi il film esce in diverse sale, a Roma esce di nuovo al Sacher, ma anche in alcuni multiplex che lo programmeranno in 3D, e credo che per chi è curioso valga la pena di vedere anche quella versione. E per gli altri c'è comunque la versione in 2D, che ha tutta la bellezza del Technicolor, che finalmente ritrova la luminosità e la follia di quel sistema, con dei colori primari che sono indimenticabili. E poi la voce, perché Judy Garland canta con la sua voce, e la versione originale con i sottotitoli. Insomma, sentire Over the Rainbow cantata dalla vera voce di Judy Garland, sentire le voci dei vari interpreti è una vera esperienza, per questo che è un caposaldo dell'immaginario della cultura popolare americana e più in generale del Novecento. Ecco Gianluca, a proposito di fantasia e profondità di campo, per chi ci ascolta, che tipo di racconto è Il Mago di Oz? Beh, Il Mago di Oz è la fantasia più sfrenata, perché è Dorothy che ha perso tutto, ha perso la sua casa, ha perso le origini, ha perso i genitori, e attraversa la sua fantasia per poi ritornare a casa. E quindi è uno straordinario racconto della nostra infanzia e di quello che abbiamo temuto e immaginato. È una delle prime grandi fiabe del cinema. Walt Disney aveva appena esordito con i suoi lungometraggi, e giustamente la MGM, questo è prima di tutto un film di produzione, dell'epoca dell'età d'oro delle grandi produzioni. La MGM era la casa più importante. In quello stesso 1939 non produsse solo Il Mago di Oz, che comunque richiese 6 mesi di riprese, ma produsse anche Via col vento. Quindi siamo alla fine degli anni 30, siamo alla fine del decennio della grande povertà, di fronte a una nuova era di ricchezza per gli Stati Uniti, anche se il mondo era sulla soglia della Seconda Guerra Mondiale, e la produzione americana inizia a fare i grandi, non tanto più i film realisti quanto le grandi superproduzioni. Il Mago di Oz è un documento perfetto di quel nuovo momento della storia del cinema. Mm-hmm. Secondo, è un film che è stato molto amato da tanti registi che poi lo hanno citato nei loro film, e anche da grandi intellettuali come Salman Rushdie, che ha scritto un bellissimo libretto sul Mago di Oz, parlandone come del film che è la ricerca delle proprie origini e della propria identità. Dorothy cerca di ritornare a casa nel suo Kansas amato, ma nello stesso tempo è anche la ricerca dell'altrove, e forse per questo è un film che resta che non è invecchiato, ecco, che resta una fiaba perfetta anche per noi e per i nostri figli. Gianluca, ti ringrazio, ci sentiamo presto per ulteriori novità. Grazie Federico, alle prossime, ciao. Gianluca Farinelli della Cineteca di Bologna sul restauro del film Il Mago di Oz, in uscita in sala dall'11 dicembre. Andrea Paco Mariani di Distribuzioni dal Basso sulle novità del mese. Paco, tanto ben ritrovato, dici tutto. Buongiorno a tutte e tutti, e come sempre è un piacere essere in collegamento con voi, e appunto ne approfittavo per segnalarvi alcune delle nuove uscite che abbiamo appunto ripreso a proporre dopo il lancio del nuovo portale. E anzitutto partiamo dall'ultima in ordine di arrivo, che è un lavoro molto particolare, si chiama Una voce in prestito, e è un lavoro che affronta anche dal punto di vista biografico la storia e la vita di Capone, che è una storica voce dei documentari Rai, che appunto ha lavorato tanti anni sui documentari, anche i vecchi documentari come si faceva una volta prima rispetto alle nuove formule che usiamo anche noi. Ed è un lavoro molto particolare e molto delicato, secondo me, e che forse va un po' fuori da quello che è la solita linea redazionale che abbiamo usato in questi anni, però ci è molto piaciuto e ci piaceva l'idea di provare anche a iniziare ad ospitare lavori che utilizzassero un linguaggio magari appunto un po' diverso da quello che cui siamo abituati. È un lavoro secondo me molto, molto particolare, molto delicato, utilizza anche tutta una serie di escamotaggi di personaggi, diciamo, per affrontare il lavoro del racconto, della biografia di questa persona, di questa figura storica del doppiaggio italiano, e vi consiglio particolarmente di visionare questo lavoro. Dopodiché gli altri due lavori nuovi che proponiamo, che sono invece diciamo più in linea anche con le nostre scelte redazionali di raccontare storie che riteniamo opportune raccontare, soprattutto che non si conoscono. Uno si chiama Chelito Rebelde ed è un lavoro girato interamente in Messico, che prova a raccontare le nuove forme di resistenza al neoliberismo sfrenato che attraversa da molti anni il territorio messicano. Da un certo punto di vista quindi parliamo sia di esperienze che di comunità che negli anni abbiamo per fortuna imparato a conoscere sul territorio messicano, ma la particolarità di questo lavoro è che prova a fare anche un aggiornamento su come oggi nel 2016 si stanno sviluppando queste forme di resistenza. Chiaramente il contesto messicano è un contesto, come sappiamo bene, molto complesso, dove sicuramente si sono e si stanno giocando anche delle partite globali rispetto a quello che è lo scontro tra le comunità e le forme del neoliberismo. Per cui ci piaceva molto e ci interessava molto poterlo ospitare, anche perché è un'esperienza legata a un giovane gruppo di produzione che si occupa anche di editoria e che presto ospiteremo anche con la sezione editoriale sul nostro portale. Sono stati anche a Roma i ragazzi settimana scorsa al Festival delle Terre e quindi probabilmente magari avete anche avuto occasione di vedere il film giù a Roma. La terza e ultima proposta, sì, invece è una proposta, è un piccolo reportage di poco meno di 20 minuti, ma molto importante. Si chiama Il massacro di Cizre, documenta in maniera reportagistica quello che è avvenuto poco più di un anno fa appunto a Cizre, che è una città nella zona curda della Turchia odierna, e chiaramente, come tante altre cose che stanno succedendo purtroppo in quelle zone da un po' di tempo, si fa fatica a scovare sui media mainstream in qualche maniera. Noi come DDB sono già da quasi 2 anni che cerchiamo di fare molta attenzione a tutte quelle storie raccontate in maniera indipendente che raccontano ciò che sta accadendo in quell'area specifica geografica in questo momento storico, ciò che comporta tutto quello che sta accadendo, non solo da un punto di vista pratico, cioè di cosa le persone stanno purtroppo vivendo sulla loro pelle, ma anche del gioco e della partita molto più ampia che si sta giocando. In questi anni abbiamo ospitato anche altri lavori connessi al tema, uno su tutti è stato Pazestan, che fu un lavoro molto importante da proporre e diffondere. Continuiamo questo percorso con questo nuovo lavoro, appunto, che permette anche in qualche maniera di continuare a tenere aggiornati su ciò che sta accadendo in quell'area, perché fondamentalmente si sta facendo molta fatica a portare qui in Italia e in Europa non solo immagini ma soprattutto testimonianze e quant'altro di quello che sta accadendo. Vi segnalo poi l'ultimissima cosa, sì, che non è un progetto direttamente distribuito secondo le nostre logiche, perché non avrebbe senso, ma lo potete trovare segnalato sul banner del nostro, sullo slider, scusate, del nostro sito. Abbiamo lanciato un paio di settimane fa un progetto cross-mediale che si chiama Do You Remember Balkan Route, realizzato dal nostro gruppo di produzione SMK Video Factory assieme agli amici di Graphic News. Per chi non lo conoscesse, Graphic News è un progetto che negli anni ha sviluppato, attraverso il linguaggio del fumetto, la possibilità di raccontare storie, di raccontare notizie, di portare testimonianze. In qualche maniera è un progetto che fa un percorso molto simile al nostro, ma che lo fa con un altro strumento, ovvero quello del fumetto. Mm-hmm. Un anno fa noi siamo stati appunto assieme a loro sul percorso della Balkan Route. Ci siamo fatti un pezzo di Balkan Route che andava dalla Serbia, l'Ungheria, Croazia e Slovenia nel dicembre 2015, quindi già in una fase dove si stava andando a smantellare tutto il sistema del percorso della Balkan Route, e finalmente siamo usciti con questo progetto che potete comodamente navigare in maniera appunto cross-mediale sul sito www.doyouremembervalkanroute.org, e che è un viaggio che racconta tutte le tappe che abbiamo fatto attraverso diversi strumenti: lo strumento del video, lo strumento del testuale, ma anche e soprattutto lo strumento del fumetto. E vi consiglio di darci un'occhiata, la navigazione è completamente gratuita perché è un progetto completamente autoprodotto, e insomma, se vi fa piacere sicuramente quando avete un po' di tempo può essere insomma bello da navigare e soprattutto da approfondire. Benissimo. Paco, un abbraccio, ci sentiamo presto per ulteriori novità. Perfetto. Ciao. Ed era Andrea Paco Mariani di Distribuzioni dal Basso sulle novità del mese. Con lui chiudiamo la puntata settimanale di Visionari, che torna in onda giovedì prossimo dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page ci ascolta la diretta. La scaletta e le informazioni sulla trasmissione le trovate sia sul sito, sempre sull'home page, colonna centrale trasmissioni visionari, sulla pagina Facebook di Visionari Radio Onda Rossa, all'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. È tutto.